strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. L'automotive riparte dal 4 maggio, dall'inizio quindi della fase 2, il settore ha finalmente rimesso in moto le sue attività, non senza conseguenze, non senza nuove esigenze create dall'emergenza coronavirus e dai conseguenti lockdown in buona parte dell'Europa e del mondo. Le quattro associazioni europee che rappresentano il mondo dell'auto, CLEPA, CEA, ETRMA e CECRA, hanno comunicato nei scorsi giorni un piano d'azione congiunto per una ripartenza efficace. Ascoltiamo la scheda. 25 raccomandazioni concrete rivolte alle istituzioni europee per superare la crisi senza precedenti innescata dal coronavirus. Si struttura così il piano di ripartenza congiunto stilato da CLEPA, ACEA, ETRMA e CECRA, le associazioni europee che rappresentano l'intera supply chain dell'automotive. Una filiera che conta in UE 13,8 milioni di addetti, il 6% del totale dei lavoratori europei. Spinta alla digitalizzazione, alla decarbonizzazione, ma soprattutto al rinnovo del parco mezzi circolante. Queste le priorità più impellenti per il settore. Le associazioni infatti chiedono un programma coordinato di misure per il rinnovo del parco circolante, che possa riattivare la domanda nei canali di vendita sia ai privati che alle aziende, sostenere la ripresa economica in generale e accelerare lo svecchiamento dei mezzi che circolano sulle strade europee. E ritorniamo in Italia, potevamo immaginarli, ma i numeri comunicati da Anfia sul mercato italiano dell'auto impressionano comunque. Le immatricolazioni nell'aprile 2020, piegato dal coronavirus, hanno subito un calo che definire drastico è un eufemismo, 97,5% in meno rispetto allo stesso mese nel 2019. Nel consuntivo dei primi quattro mesi dell'anno in corso i volumi di mercato si sono dimezzati, meno 50,7% solo durante il bimestre marzo-aprile, ossia quello interessato dal lockdown completo, si sono perse più di 360.000 immatricolazioni. Il Ministero dei Trasporti ha fornito delle precisazioni alla luce della conversione in legge del decreto Cura Italia, che ha ampliato la disposizione sulla validità di alcuni documenti necessari alla guida. Le patenti di guida scadute a partire dal 31 gennaio, configurandosi anche come documenti di riconoscimento, avranno validità fino al 31 agosto 2020. Prove di ritorno alla normalità all'interno delle case costruttrici, oltre alla riapertura di molti stabilimenti costretti alla chiusura dal lockdown da Covid-19 e, sebbene con presentazioni ancora virtuali per ovvi motivi di sicurezza, si avvicendano i lanci di nuovi prodotti. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Toyota Yaris Cross, il nuovo SUV compatto ibrido del brand. Ascoltiamo la scheda. Si inserisce in un segmento, quello dei crossover, che negli ultimi anni piace molto agli automobilisti italiani. È la nuova Toyota Yaris Cross, il B-SUV o crossover compatto con motorizzazione ibrida della casa giapponese. Gli interni assomigliano molto a quelli della famiglia Yaris e rispecchiano il motto piccola fuori, grande dentro, soprattutto in fatto di capienza e versatilità. Il design evoca le caratteristiche classiche dei SUV, con un corpo vettura più alto e ruote più grandi. Il propulsore beneficia della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Toyota e in questo caso ha una potenza complessiva di 116 cavalli. Oltre alle tecnologie di bordo e ai sistemi di assistenza alla guida, una delle caratteristiche che contraddistinguono la nuova Yaris Cross è la disponibilità di un sistema di trazione integrale intelligente, caratteristica nuova per i veicoli ibridi, che offre una stabilità e una trazione supplementare nella guida di tutti i giorni, in condizioni difficili e su superfici a bassa aderenza. E cambiamo decisamente argomento perché parliamo di assicurazioni, anzi di frodi assicurative. Qualche giorno fa c'è stata un'operazione delle forze dell'ordine che ha messo i sigilli ad una serie molto lunga, devo dire, di siti internet dove si vendevano polizze assicurative false. Centinaia, se non migliaia, gli utenti che erano cascati nel tranello. E allora cerchiamo di capire come difendersi da questo tipo di truffe in compagnia della nostra ospite, che è Romina Ronchi, responsabile del servizio antifrode di ANIA. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Non è la prima volta che le forze dell'ordine operano in questo settore ed effettuano questo tipo di sequestri, ma cosa deve fare un utente per capire che un sito internet non è, come dire, regolare? Allora, innanzitutto l'utente può verificare se il preventivo della sua polizza auto o attraverso un'impresa o un intermediario o sia stato offerto da un operatore regolarmente autorizzato dall'IVAS. L'IVAS è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Per effettuare questa verifica il consumatore può semplicemente andare a consultare sul sito dell'IVAS. Nel caso in cui il preventivo di polizza sia riferito ad un'impresa, l'elenco delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Nel caso in cui invece il consumatore si sia rivolto ad un intermediario, può effettuare opportune verifiche consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e l'elenco degli intermediari dell'Unione Europea, sempre a disposizione sul sito dell'IVAS. Quindi mi sembra di capire che è un problema che può sorgere non solo su internet, ma anche con degli assicuratori reali in carne ed ossa? Esatto, lo confermo. In riferimento invece ai siti internet irregolari, IVAS mette a disposizione un elenco che viene mantenuto costantemente aggiornato sulla base delle segnalazioni che giungono all'istituto. Tra l'altro, per agevolare i consumatori meno digitalizzati, l'istituto ha attivato un numero verde dedicato che può essere contattato per ricevere assistenza in materia assicurativa e anche in caso di dubbi in fase di sottoscrizione di un contratto RC auto. Il numero verde è 800 48 6661. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. Ecco, al di là della consultazione di questi elenchi, ci sono altri sistemi che possono agevolare in qualche modo i nostri radioascoltatori per la scoperta di queste truffe? La risposta è sì, ci sono altri accorgimenti che possono essere presi per evitare la sottoscrizione di polizze inesistenti. Ad esempio, nel caso in cui il preventivo sia stato offerto da un intermediario, è opportuno verificare che sul sito internet dell'intermediario siano riportate tutte le informazioni che lo identificano, come previsto dalla legge, tra l'altro, quindi il numero, la data di iscrizione al registro unico degli intermediari, l'indirizzo della sede, il recapito telefonico e necessariamente deve essere riportato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, nel caso di sottoscrizione di una copertura assicurativa attraverso un sito web, sicuramente un altro campanello di allarme è l'eventuale richiesta di pagamento del premio assicurativo a favore di una carta di credito ricaricabile. Anche perché è una modalità non consentita dalla normativa, in quanto le carte di credito ricaricabili non sempre sono tracciabili, ovvero non riconducibili all'identità del possessore. Anche la presenza di soli contatti WhatsApp oppure di un cellulare è un fattore degno di attenzione. Per riepilogare, bisogna fare attenzione alla veridicità dell'impresa e dell'intermediario attraverso la verifica degli elenchi messi a disposizione da IVAS, ma fare attenzione anche alle modalità di pagamento offerte e ai canali di comunicazione previsti. Non è solo questa l'unica truffa che riguarda il mondo assicurativo, ce ne sono altre ben più famose, che sono le truffe assicurative dei falsi incidenti. Quanto è presente questo fenomeno in Italia e cosa bisognerebbe fare per stroncarlo definitivamente? Il fenomeno è piuttosto presente in Italia. Gli ultimi dati a disposizione fotografano le frodi RC auto dell'anno 2018 e sono messi a disposizione con un aggiornamento annuale dall'IVAS. Se noi poniamo a confronto i dati del 2018 con quelli del 2017, si ricava che a livello nazionale sul totale dei sinistri denunciati RC Auto, che ammontano a 2,8 milioni nel 2018, è sostanzialmente stabile, pari a circa il 22% del totale, la percentuale dei sinistri che sono classificati a rischio frode. Questa classificazione avviene attraverso dei parametri di significatività, come ad esempio la verifica in un preciso arco temporale di un numero di sinistri correlato alla medesima targa, oppure la ricorrenza della medesima anagrafica con diverso ruolo tra quelli di proprietario del veicolo, testimone, danneggiato, eccetera. Ecco, lei ha detto a rischio frode, quindi non sono dimostrabili, o meglio, sono in una fase preventiva rispetto all'accertamento. Poi le frodi vere e proprie a quanto ammontano? È corretto. Ho parlato finora dei sinistri classificati a rischio frode sulla base di parametri di significatività, mentre i sinistri oggetto di accertamenti antifrode da parte delle compagnie superano circa il 13% del totale dei sinistri denunciati. Di questi sinistri che sono oggetto di approfondimento, quasi il 15% nel 2018 è stato chiuso senza seguito, ovvero la gestione della pratica si è conclusa senza alcun pagamento a titolo di risarcimento. Quindi alla fine è il 15% del 13% quello che realmente è rappresentato dalle frodi assicurative, corretto? È quello che effettivamente si è chiuso senza seguito, ovvero la compagnia è riuscita a ottenere le prove affinché ha potuto concludere la pratica senza riconoscere risarcimento all'assicurato. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite, Romina Ronchi, responsabile del servizio antifrode di ANIA. Grazie per essere stata con noi, ci ha raccontato un po' questo mondo così pericoloso delle frodi assicurative. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte. Parleremo invece di traffico urbano, di grandi città e di soluzioni legate alla ripresa delle attività. A tra poco. Quando arriva la cassa integrazione? Dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Parliamo di mobilità cittadina, di traffico veicolare. Ormai eravamo abituati a delle metropoli completamente ingolfate dal traffico, congestionate, con auto in seconda, a volte in tripla fila, con parcheggi perennemente occupati, anche quelli riservati ai disabili o ad esempio al carico e scarico delle merci. Tutto questo in queste ultime settimane è scomparso, ma non è detto che non possa ritornare da qui a poche settimane addirittura, vista la ripresa delle attività e l'imminente arrivo addirittura di una fase 3 che dovrebbe riaprire completamente anche tutti gli esercizi commerciali. Insomma, una situazione che va sicuramente affrontata con dei modelli di riferimento, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è l'architetto Lorenz Bannermann, segretario generale di iPark, che è l'associazione che raggruppa le società concessionarie dei parcheggi e delle aree di sosta all'interno delle città. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Dottore, buonasera a lei e grazie tanto per l'invito. Allora, cominciamo con un dato, che è quello delle nostre città. Prendiamo ad esempio Milano e Roma, dove Milano con il suo Interland, Roma all'interno del raccordo anulare, prima della grande crisi c'erano 5 milioni di spostamenti. Questi spostamenti erano garantiti per il 45% a Milano e per il 24% a Roma dal trasporto pubblico locale. Ora tutto questo verrà meno, perché sappiamo bene che il trasporto pubblico locale dovrà ridurre necessariamente le sue capacità di carico per mantenere le distanze, e tutto questo si riverbererà sicuramente in un aumento del traffico cittadino, soprattutto quello veicolare. Qual è secondo lei la situazione che si andrà a in qualche modo verificare nelle città italiane da qui alle prossime settimane? Domanda molto pertinente, grazie. Allora, abbiamo bisogno di prendere in considerazione che abbiamo veramente un'incredibile opportunità da non sprecare. Per fare questo abbiamo bisogno di lavorare per ottimizzare lo spazio e gli usi per poter assicurare un'accessibilità. Abbiamo un settore, quello della mobilità in generale, che sicuramente è un contesto frammentato, però abbiamo bisogno di mettere a sistema tutti quelli che sono i diversi componenti per trarre il maggior vantaggio. Per fare questo noi stiamo proponendo di effettuare un censimento per consolidare un sistema coordinato dell'offerta di sosta, perché visto i pesi dell'uso dell'autoveicolo, come lei diceva inizialmente, insomma il 37% degli spostamenti a Milano e 66% a Roma, che cresceranno, abbiamo bisogno di consolidare questa offerta per ottimizzare gli spazi. Dobbiamo mettere a sistema la sosta su strada, la sosta in superficie, nei parcheggi, nelle autorimesse e ove possibile anche nei parcheggi pertinenziali. Questo qui deve diventare una base conoscitiva esaustiva sull'offerta per poter regolamentare la domanda di sosta dei veicoli sia a due che a quattro ruote nelle nostre città. Certo, ecco, voi avete elaborato un vero e proprio manifesto congiunto insieme con gli esperti della pianificazione della mobilità urbana. Qual è la vostra visione a breve periodo, e poi dopo parliamo invece anche di una proiezione più in là nel futuro? Ma sicuramente la cosa essenziale da fare è di mantenere una regolamentazione dell'attività della sosta, perché si sta sentendo anche in questi giorni che ci sono delle città che intendono spengere i sistemi, aprire i varchi, e a quel punto lì il TANA libera tutti e diventerà una congestione garantita in assoluto. C'è bisogno di arrivare a una regolamentazione. Noi abbiamo un testo che potrebbe essere approvato velocemente dalla Camera, perché ha fatto una buona parte dell'iter essendo approvato nelle commissioni, per estendere i poteri di controllo degli ausiliari della sosta. Noi abbiamo bisogno di poter controllare e regolamentare l'offerta della sosta. Una volta che noi mettiamo a sistema tutto il pacchetto della sosta, che può funzionare 24 ore al giorno, ed essendo il nostro un settore di persone di specialisti che gestiscono il servizio, abbiamo la possibilità anche di ottimizzare la domanda. Stiamo studiando le diverse esigenze temporali dei residenti, dei lavoratori, delle categorie speciali, anche per esigenze di carico e scarico, eccetera, e abbiamo bisogno di far sì che tutte queste varie funzioni hanno le loro esigenze, però dobbiamo togliere di mezzo tutti quegli abusi che avvengono, le persone che hanno i parcheggi pertinenziali ma sostano sulla strada e poi si spostano all'interno delle aree. Noi abbiamo gli strumenti per ottimizzare il funzionamento del servizio della sosta, per far sì che diventi uno strumento anche per indurre gli utenti utenti a utilizzare anche altre soluzioni. Certo, a proposito di questo, quindi mi sembra di capire, per ottimizzare la sosta e ottimizzare la mobilità di tutte le categorie, c'è bisogno di fare una pianificazione molto attenta delle esigenze di queste singole categorie, quindi no a delle liberalizzazioni delle ZTL. Questo è il messaggio nel brevissimo periodo che mi sembra chiaro. Qual è invece il progetto a lungo termine per dare alle città delle regole che ci consentano di evitare forme di congestione o di traffico selvaggio? Quello che ci serve più di qualsiasi altra cosa è di poter introdurre un sistema in grado di gestire una flessibilità di domanda. Per fare questo noi abbiamo bisogno di poter contemplare usi diversi in orari diversi, con funzioni diverse, con tariffe diverse. Questa è una cosa che ormai l'abbiamo consolidato a livello europeo in innumerevoli paesi, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, dappertutto, introducendo la digitalizzazione. Con la digitalizzazione riusciamo ad avere un sistema che risolve un miriade di problemi. Cioè, l'altro giorno ho sentito di una città che voleva liberare tutto perché i medici avevano bisogno, giustamente, di non dover pagare la sosta, ma non avevano nessuna traccia delle esigenze dei medici, aprono tutto per non creare problemi. Utilizzando la digitalizzazione, qual è la chiave? La chiave è che si utilizza la targa come elemento identificativo del veicolo. Questo gli dà l'indicazione del titolo di sosta di cui dispone, se è a pagamento, se è un permesso, se è un abbonato, quello che è, e ci riesce anche ad ottimizzare gli usi dei spazi per queste persone. Ecco, mi scusi, ma questo mi sembra un sistema già largamente utilizzato oggi per l'accesso alle ZTL, non c'è molta innovazione in questo? No, non c'è innovazione, c'è bisogno di applicarlo. Infatti ha toccato un tasto eccezionale, cioè da un punto di vista di tecnologia non abbiamo bisogno di creare nuovi problemi difficili, però abbiamo bisogno di poter estendere l'uso di questi sistemi non soltanto per i varchi all'eccesso delle ZTL, ma per gestire tutto il sistema della sosta. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Lorenz Bannerman, segretario generale di iPark. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.